Sei lezioni per il futuro, sei lasciti per andare lontano e comprendere e ripensare pienamente la letteratura e il mondo. Questa, una delle eredità più importanti di Italo Calvino nelle lezioni americane, di cui ci parlerà Teresa Ruberto. Italo Calvino nacque a Cuba nel 1923, crebbe in Liguria e partecipò alla Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo il conflitto iniziò la sua carriera letteraria, prima con opere di ispirazione neorealista, poi avvicinandosi ad una scrittura più fantastica, allegorica e sperimentale. Era molto attento ai cambiamenti della società e del linguaggio e ha saputo unire immaginazione, razionalità e riflessione sul ruolo della letteratura. Lezioni americane è un testo complesso e affascinante che offre spunti di riflessione per scrittori, lettori e pensatori, mostrando come la letteratura possa avere una funzione esistenziale di conoscenza ed essere insieme alla peste del linguaggio moderno. Il titolo originale del libro è Six Memos for the Next Millennium. È un'opera di Italo Calvino, uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento. Quest'opera, pubblicata postuma, nasce da una serie di conferenze che Calvino avrebbe dovuto tenere all'Università di Harvard nel 1985, ma che non riuscì a completare a causa di una letale emorragia cerebrale. Le lezioni parlano dei valori che, secondo l'autore, la letteratura del futuro dovrebbe preservare. I valori presenti sono sei, l'ultimo dei quali è incompiuto. Leggerezza, non superficialità, ma un modo di planare sulle cose dall'alto. Alleggerendo il linguaggio e la narrazione come una strategia contro il peso, Calvino usò la storia di Perseo e Medusa come esempio e il simbolo della luna. Rapidità. Intesa come velocità mentale, il controllo del tempo narrativo e l'equilibrio tra l'accelerazione e l'indugio, usando anche figure mitologiche come Hermes. Esattezza, precisione linguistica, concettuale e chiarezza, con riferimenti a Galileo e alla matematica. Visibilità, la capacità che rende visibile ciò che è invisibile, attraverso immagini e figure che legano linguaggio e percezione. Molteplicità, l'esplorazione del mondo in tutta la sua infinita complessità, utilizzando anche autori come Gadda per penetrare nel groviglio della realtà. Consistenza o coerenza, ultima lezione, di cui restano solo appunti, suggerisce la coerenza come elemento fondamentale per affrontare la realtà. La lezione che più mi ha colpito è quella sulla leggerezza, intesa non come superficialità, ma come il volo di una farfalla, di una rondine, un passo felpato di un gatto. Il simbolo principale che rappresenta la leggerezza per me è la luna, oggetto di molti autori, tra cui Leopardi, citato dallo stesso Calvino, che aveva un rapporto simbolico e complesso con questo astro, considerandola come una confidente religiosa. La luna, con la sua immagine candida, suscita tranquillità e quiete, proprio come la leggerezza, che ha la capacità di sollevarsi sopra il peso del mondo. È una forza, un modo per affrontare le difficoltà della vita con grazia, senza farsi schiacciare dalla vita stessa. Una qualità rara e preziosa da custodire.